Buonasera. Tino. Buonasera. Fa l'altro passaggio. Com'è? Come sta andando? Ah, beh. Si sta bravo o non mi sta bravo ieri tu? Non ti stavo riconoscendo. Ero distante dal mic, Giammarino. Beh, come fa? Così, si tira avanti, già, non ci dobbiamo lamentare. Ok, è meglio così, dai. E quella persona come sta? Quale di quelle persone? Da parte mia. Va bene, ancora chi ne sono? Sono ancora riposando. Dovrebbe alzarsi, diciamo, fra una quindicina di minuti, credo, mezz'ora. Ah, ok, dimmi com'è questa radio? Guarda, è come che sto modulando in verticale. E allora sta andando bene. È strano, che c'ho quasi due stazionarie. Aspetta che prova a schiacciare il mic nuovamente, perché ero distratto, non ho visto il segnale. Ok, vediamo, 1, 2, 3, prova, com'è? 9, 10. Non riesco a buttarmi giù le stazionali, strano, Chiamate la tennista, già ce l'hai. Ce l'ho già, ma non mi vuole segnare, è bloccato. Non lo so, non io l'ho passato l'accordatore, devo chiamare per farlo muovere. Adesso si è sbloccato, però male. Si canta a giuire. Già può essere, ma se è tanto tempo senza utilizzare, diciamo che anche loro hanno bisogno di utilizzarli. Scusa, Pirino, giovai che mi è arrivato un messaggio. Vai qua. Ciao Mari, e che facendo c'è? È bello. E beh, Gio Mari, sentivo prima, stavo in cucina che stavo sbucciando castagne. E cosa stai sbucciando? Patate? Castagne, per carità, tutti guasti. Ho capito male. Ho capito patate. Va bene così, ho fischiato. C'era una cosa, Leoncino già messo al sulla, chi è? Ah, Leoncino c'era, ma qua, il baracchino. Oh, il PMR. Cosa? PMR, il programma del telefono, se uno si mette in un loop e tu non può parlare di 50.000 punti. Stava, come c'era uno che stava chiamando, no? E lui e Leoncino faceva che avanti, avanti, e quello non rispondeva, capito? E ha fatto almeno 50 chiamate e se le metteva a ridere quello là. Ho capito. Ma tra me e Luca te quel programma, Gio Mario, nel telefono. Ma ho capito lui. Ho detto, se Luca te l'ha messo quel programma nel telefono. Ma non ne ho voluto io, Luca. Capito? No, non mi interessa, capito? Io Luigi, vivo. Infatti, già veramente, io già entro io, mi sento ascoltare. Magari sto facendo cosa, va bene, ascolto. Vabbè. No, lui, dai. Ce l'avrei voluto, magari avrei messo da parecchio tempo pure. Ma non ho mai voluto, capito? È abbastanza che mi annoiaggio un computer, pure un telefonino che vuole. Ascolta qua io, dai. Dai, allora la parecchio ascoltare, per cui è a voglia. Ma proprio al telefono non mi interessa, capito? Sì, vabbè. Ripeto, io non sto facendo cosa, mi metto l'ascolto, dai. D'accordo, fai pure lui. Fai pure. Solo che non bisogna traslare, cazzo, se no è più di scopo, cazzo. a chi sia un qualche buono questo canale, a voi magari ci siete qualche battistracca, capito? Ma infatti gliel'abbiamo detto, non trasare. Lo sa, cazzo, per la visita, che lo ci fanno, cazzo. Non va bene, capito? Perché sennò colpa duro ci piangiamo tutti, ecco com'è. Si conferma. Sono d'accordo con te, Giovanni, però vabbè. Dice, stavo trasmettendo un, non so, stavo salvando un suo attivo. Vabbè, ascoltatelo tu, ma non traslare tramite la radio. Vabbè, dopo come fai? Graziano, già lo sai quanto è fatto. E capito tu, cioè? Ma io salgo, Leo, lo sapevo che ero lui, ma non mi interessava, capito? Solo che non si fanno, ecco, non si fanno e basta, ecco. Ascoltato tu, che è una cosa più giusta, dai. Che magari alza che ti metti per queste e o prima o poi magari ci siete qualche cosa, ecco il patrone, invece se almeno lì se ci comportiamo bene siamo tranquilli, capito? Ma infatti è così, Giovanni, vabbè, dove va? Purtroppo dice che l'ha fatto per far entrare a noi. Vabbè, ognuno fa quello che vuole. Però non è giusto, va. Facciano come vuole, io non le farei di queste cose, perché non è giusto, ecco. Vabbè, se lo vogliamo, dai. Se lo vogliamo, non è successo niente, per cui preghiamoci. Ok, cos'è che stai combinando? No, io nulla, mi sono tutto qua in cameretta, Giovanni, nulla. Niente di che. Ho sentito che stavi chiamando a Tore, ma non ti ha risposto. Si vede che ancora non è rientrato, capito? Stai acceso qua, aspetto che rientri, no? Tanto entrerà anche Bacchino dopo. Ok, bisogna fare qualcosa, falla pure, là. Intanto io sono qua a cameretta ancora, aspettando che la 25 dal bagno, poi entro io. Ah, com'è la radio? Buona, sì? Perfetta. La mia com'è? Bene, vado bene. Boh, faccia la così. Intanto la buca così e così rimani. No, ok, mi aspetta, guarda, guarda se un momento cosa succede, prova. 1, 2, 3, prova. No, così stai strappando. Perché stazionari sicuramente aumentano e strappa. Va bene così, più basso, dai, a foglia. Non c'è bisogno di aumentare, capito? Si conferma. Però lasciamo così, Giovanni, tanto noi che arrivi, dobbiamo parlare tra di noi, poi il resto non mi interessa. Qua si serva più batti uno con l'altro, per cui no. Passano comunque 4 fatti anche troppo. Non è che possiamo andare oltre, capito? Va bene così, dai. Giovanni, va benissimo, 3 watt pure basta, ma anche 1 watt mi ha voglia. 9.30 qua, puoi immaginare. Tu lo stesso, ma ti piace il tuo filetto? 4 watt sto usando io, capito? Vabbè, va benissimo, Giovanni. Allora, l'altro giorno, quando sono entrato da casa, io non ho disturbo nessuno, Giovanni, allora ti spiego. Questa ragazza ci ha comprato, se li conosci, quelle casse che si attaccano al computer, lì le ha attaccate al televisore, sono quelle casse della Trust, che è il sub, piccolino e le due cassettine. Speravo di più audio attaccato al televisore e mi sento dentro quelle casse. È un baccello, ed è brutto, è brutto, perché magari così io magari sarei stato così, magari non fa troppo, è così, ma sai, quando io disturbavo prima, sai come mi disturbavo, mi piaceva che io non potevo parlare, capito? Penso che siamo tutti così, no? Se uno magari entra e che non disturbi, mi rompi anche a me, capisci? Giovanni, il discorso è che non dipende da me, alla fine c'avevo queste casse che non sono fermate, io non ci posso fare. Le ha pagate 30 euro, non è che l'ha pagato in Instagram, 30 euro, dice sì, io se tu non parli sento bene. Ma il problema è tuo, comunque gli ho messo anche quella ferrite, un po' di fiamma, nulla, è proprio lo stesso. Pensate già a comprare delle case buone. Ah, cosa, c'è da rifare più. Purtroppo è un macello, quando si entra in qualche posto è brutto, capito? E purtroppo già lo sappiamo che il baracchino fa quelle altre, per cui bisogna stare anche attenti, capito? Già lo sai cosa hanno fatto a quella persona. E quando si può smettere meglio, dai. Non entro nella TV, Gio Maria, attenzione, non li sto disturbando la TV, ma infatti quando io sono salito su, vedevo anche il televisore ballare. E poi mi ha detto, ma il baracchino acceso c'è? Sì, ma non sta parlando nessuno. Se non trasmette non disturba. Infatti il quadro usciva a strisce, ma non dipendeva da me. Sicuramente c'è l'antenna che male, la ballerina col vento, il segnale saltava. Ah, può essere anche così, può succedere anche così. E cioè la colpa non è la mia. Ma comunque stavo provando con questa ferrite, vediamo un po' se riesco a risolvere il problema. Vedo un po'. Se riesce a risolvere sarebbe una cosa molto utile, va. Sia per uno che l'altro, va. Sai che uso poco come baracchino a casa, quasi niente. Io la tassa la pago ogni anno. Anche quello c'è, però qui magari quando entri succede queste cose, ecco come il fatto. Invece se non si entra è meglio ancora, e almeno sei tranquillo e puoi chiacchierare quando ti pare ti piace. Ma non è successo mai, vero? No, da poco. Dopo anni io non disturbo nessuno, Gio Maria, nessuno di dentro. C'è la via di casa, solo a lei che ci ha messo queste carte. Entro nelle casse del questo non ricordo come si chiama, quel coso per uscire più potente l'audio dalla TV, che non servono a niente, non sto schermando. Ma anche lì si deve mettere le condizioni più perfette, però non è che lei possa fare quello che vuole, io no, questo non va bene. Infatti Luca mi ha detto di usare il microfono normale, io gli ho detto il microfono normale non ne ho. Ce l'ho ma non funziona, cosa uso un microfono normale, ma poi mi sento lo stesso, perché lì purtroppo non è schermato, c'è una schermatura in quel coso. E può essere anche una schermatura, o può essere un apparecchio che non è perfetto, capito? E allora entra, capito? Ma 30 euro Gio Maria, ne ho uno della LG con 5 casse, ma questo è diciamo una cosa più seria, questo sicuramente l'avrà pagato, guarda non vorrei esagerare, ma almeno 150-200 euro, ma fallo 150 euro, perché anche un lettore DVD, DVX, è tocca puro, ma io DVD ce l'ho, ma non entro, non entro, ho provato assolutamente. Ho i film del 72 e c'ho anche un altro tipo, sempre con 5 casse, non entro. Costa poco, mi sembra che quello abbia pagato 250 e quel Filispin avevo pagato 350.000 lire, allora. Prova. Beh, io non sto entrando, l'ho acceso. È il suo, dai, è un giocato, Gio Maria. Di solito il subwoofer per pesa, chi giubbise, meno di un pacchetto di sigarette. E allora, a tratti sei uscendo però lui. Guarda un po', prova, 1, 2, 3. Ancora. Adesso 1, 2, 3, prova. Adesso no. Eppure li ho rifatti nuovi, i fili. Stava a tratti, non mi sento. Toccato. Se metti di qua, noto che il filo è un po' straccato. E me lo riporto a casa e li faccio i fili nuovi di nuovo, dai. Magari in quel punto lì è che è mezzo interrotto. e infatti di nuovo a tratti, ogni tanto si interrompe. Vediamo un po' se c'è Torre, ancora non è rientrato. Ma chi zio? Aspetta due secondi, Gio Mari, che c'è il coso mezzo fuori, lo apro, aspetta due secondi, eh. Ehi, fai, fai, lascialo qua, cava. Allora qualcuno che sta divertendo sta mandando la no, non ero io, no. Ancora tratti, ecco. No, fa una passaggio adesso. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ogni tanto lo fa però, eh. Adesso si è uscito più bene. Non ti avvicinare molto al microfono, a vedere. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, insomma. Adesso è perfetta la radio. Allora mi devo avvicinare al microfono, dai. Se lo faccio così, guarda. Guarda un po', adesso sto strappando, prova, 1, 2, 3, prova. No, va bene tu, va bene, lascialo così. Tanto se tu lo metti è peggio, capito? Chiaro che sta. Aspetta, lascialo così, va bene, a voglia ti sento. Vabbè, comunque nelle mie casse non resto, tu? Vai, cercati. Come vai? Io non mi posso fare da domani. Purtroppo si è comprato delle casse che non si fanno niente. Tanto la cosa non è filtrato, la gente non è filtrato. E allora, sai com'è? Come voleva questo? Io lo stavo vendendo, come voleva pagherò, no? Maledetti, se non gliela devo dare. Pagherò. Ma se uno avrebbe pagato, ma è sicuro è uno. È che ti fanno aspettare, devi stare lì qua a chiedere di studi, e beh, con la commissione, non è purtroppo è così, eh. È come se tu mi dai un maracchino, appagherò, e tu magari non puoi sentire, devi stare lì a chiedere di studi, non è giusto, ma la stessa cosa che faccio io con te, stare lì a chiedere, tocchi, maledetti, sì. È quello che sta anch'io, quello che sta anch'io. Io più di uno a me mi hanno fregato facendo così, capito? Per cui no, non ne darei, dammi di poco però, inutile che ti venda una cosa, un tanto e dopo non mi dai la cosa giusta, non va bene così, però il valore già è stato poco, come insomma. Ho lasciato perdere, però non è anche giusto. La parola è parola. Io ti do l'apparecchio e dico, dammi tanto, me ne va, però tutto ce l'ho sull'altro momento. Viste ne hai tu, altrettanto l'ho visto io ancora. Ma non va bene, cioè, uno vende perché non è che ha bisogno di studi, però lo sta vendendo perché magari si vuole comprare un'altra cosa, ma è una cosa superiore, oppure non ne fa niente, lo vende, non deve dare spiegazioni. E io l'ho detto, vediamo un altro giorno, allora un altro giorno. No, ma io infatti non do più niente a nessuno. Io sono solo in contatto, non do niente nulla, non lo do a nessuno. Che mi danno i soldi subito, se non ho niente da fare, perché ormai sono 3 o 4 che mi hanno fregato, che no. Certo, io gli ho pagati, certo, che voglio che gli altri dovrò pagare a me. Ma non do più niente a nessuno, se non mi danno niente in contatto. Boom. Certo. Non mi sei esatto, pare non me ne stanno chiedendo. Ne ho parecchi da dare, però se non mi danno soldi in contatto non le do. Esatto, pare non me ne chiedono. Sì, la ciappola è quella e boh, che mi dà di nessuno di chi. Io mi ha lasciato di me, insomma. Ascolti chi ci vuole, ce ne che se ne frega. Però non voglio che mi freghino più, capito? No, va bene a fregare più, anche lui va bene a lui o a lei, che ci sia, non va bene. Non fa niente, uguale, se ne più o ne prende. Fatto non darle. Ah, no, ma infatti non le do più, Non le do più. Oh, togli subito, infatti, come tu hai detto. Oh, che maledette subito, oh, se non riesco a fare. Sì, già gli ho pagati io, che si chiede. Pare non me le richiedono. Dai, ci guarda, sai che c'è la... E ti rirappo. E sono più contento. Ma se ne è pagato o se gli hanno regalato, non è un problema questo. Sempre scusso. Ah, la cosa che mi regalo, l'ho regalata, lo devo dire a Marco Ma. Sono io che le regalo e non le dico le mani buone. Mi regalo e basta, ma se io te lo offendo, tu mi devi dare quello che mi devi dare, ma se non me le dai mi dispiace a me queste cose, perché non è giusto, ecco. Non sei una persona di parola. Non sono, infatti tu non sei una persona di parola, basta non dare niente, ma fai come me. Ah, no, infatti non le do, Senti, l'apparecchio non ci così, l'avrei voluto dare, ma se non mi danno quello che voglio, non li do, assolutamente. Ma che si bada non li do, capito? Niente a fare, ripeto, dai, ci guardano, se non fossi la tua figlia, ce l'ho buttato al cartoletto, già sto pagato. Poi se uno, ripeto, gli hanno regalato, non è importante. Un regalo è un'altra cosa. Infatti. Sì, sì. Ma sei da ragione. Vediamo un po' a richiamare la Torre. La Torre! Ehi, signor Giammani! Oh, meno male, beh. La Torre, ma sì, che si è persa la bufera, invece, io. Buonasera! E allora? Buonasera! Cosa vuole che sia? Non c'è nulla! Allora, senti, Lu! Sì, ciao Tò, buonasera anche a te! Ciao Luca, buonasera! Io a casa che andiamo stasera. E perché? Così! Il Graziano non è entrato! Non l'ho sentito qua, no! Deve essere il coso, il PMR mi sembra che era. Ah, io vedo che è mutuo il PMR. È mutuo mutuo. Non piace il PMR, mi piace. A me pure mi piace, ma... Vai, tutti due a te, uno e l'altro. Vabbè. Vuol dire che non ha una gana stasera di entrare, no? Aspetta perché chiamo il signor Bacchisio. Attenzione signor Bacchisio, se ci sei batti la porta. L'ho chiamato anche io 3-4 volte, non mi ha risposto, certamente il apparato ci pure là. Vai lui. Sta dormito. Dai, visto che è stato attorno io mi attendo 10 minuti, 4 ore, dai. No, ripeti, a frappino, sei attento. Lasciami noi. Già siamo qua. Vero Gio Maria? La TV, voi vi sto guardando anche la TV, ce l'ho da fare. E parlo e ascolto. E guardo la TV. E cosa vuoi fare sto? Cosa ci vuoi fare? Cosa hai combinato oggi sto? Ah, poco fa quando hai chiamato, ce l'avevo acceso sì, ma ero dentro in cucina che stavo mettendo a bollire le cose per le olive. E da loro e finocchietti. Ah, fatta il motore lo stacco di giro. Ho il apparato. E vabbè. No, io ho acceso dalle 4, stavo cercando quel microfono, ma non me lo va, Non me lo va assolutamente. Mi dà la come si chiama? La scrittura di quell'apparecchio del 14 anni fa, ma quell'apparecchio mi ha dato. ha dato solo accessibile l'apparecchio, i nuovi, apparecchi, capito? Però quel, il microfono e l'apparecchio, il 497 non me l'ha dato. Però, cazzo, altre mattine, prima c'era, cazzo, ma prima ce l'avevo e non l'ho richiesto. Adesso che mi serve non lo trovo in nessuna parte. No, te l'ho cercato anch'io, anche a me mi ha dato la tutto il coso dell'apparato, però senza darmi quello lì nel microfono suo. Ma mi ha dato nulla di chissù, solo la scrittura e boh, di come è fatto, come è, non ha mandato altro. Infatti mi ha dato tutto come è fatto, come l'ho fatto, cosa avevo bisogno di fare per il 400 canale, pure me l'ha dato. Ma quello non mi interessava, quello che mi interessava non me l'ha dato. E a pensare magari il mese di settembre mi dava anche l'apparecchio. Invece adesso non me lo dà più. Poi se dovrà dare il segno. Non lo fanno più quell'apparecchio lì. E forse è uscito da tutto quanto. Penso che non lo fanno. Però se in settembre c'erano nuovi pure, magari può darsi qualche pagina che ci sia, ma era capitato. Io ho provato dappertutto, ma non lo... solo nel Regno Unito che non me l'ha dato, nemmeno lì. Esattamente, o li hanno tutti venduti, o l'hanno tolti da mezzo. Sicuramente. Ma manco il coso, nulla mi ha dato. Ho provato anche nelle ditte la cosa, come si chiama, a coso elettronico, nulla. Non me ne dà neanche lì. Pazienza, tanto io devo imparare, lo lascio con te, saluto lì e c'è, ciao. Certo, magari quello là era bello perché era più piccolino e c'era anche i comandi nel microfono, capito? E forse era meglio avendo l'originale, no? Se non c'è, non c'è. Vuol dire lasceremo quello che l'ho adattato, quello della Fayette. L'ho adattato quello della Fayette. Vado per con quello. Poi di mamma, non ne sarà più. Ma è un macello, È un macello. Trovo pazienza, se riesco a trovarlo fa piacere, ma se no non mi interessa. Tanto, dai qua, sempre, non che lo devo dare niente. Io ce l'avevo, a uno glielo ho dato perché mi ha chiesto il microfono originale, ne avevo uno solo. Quell'altro l'avevo preso, che ho venduto, ma ha detto, se no, mi dà il microfono originale, l'ho preso, se no dice no. Allora ho preferito dare il microfono e a questo che ho, me l'ho adattato l'altro, capito? Vabbè, pazienza. Se dice, ma c'è pallo, è buono, se no, devo dare così, Gio Mario. Ho bisogno di trovare qualcuno usato, magari, che non funzioni, che ci abbia il microfono e si prende magari per il microfono, capito? Già si trovano quelli lì, però bisogna guardare, è la roba usata, bisogna guardare. E cosa è? Dopo c'è i baracchi usati e tutto. Quello lì io stavo guardando, però non me ne dava. Se ti dovrà capitare faccio il diretto e io lo sento, mi da un po' a qualche posto se lo troviamo tutto lì. Già tanto ci sto guardando, ogni tanto mi metto a guardare se riusciamo a trovarlo. È lì perché è tutta roba nuova adesso, c'è uno nuovo. che ho fatto adesso con lo display azzurro, aspetta, mi si chiama Intec, allora non me la metto la sigla, il nuovo tipo che ho fatto, sono 80 canali. No, quello bisogna guardarlo, ma vedere se va bene. Ma è diverso, capito? Beh, è diverso il microfono. Li ho contattati tutti, quelli di vista, che sono tutti diversi, capito? Uno diverso dall'altro. Invece questo che voglio io, che ho cercato io, c'hanno i due tastini per cambiare il canale, capito? Invece quegli altri non ce li hanno. Ah, il microfono piccolino rimane. È piccolino infatti, allora, è piccolo e fa tutto da anche al microfono, capito? Non c'è un peso allora, c'è due tastini per cambiare i canali, così è. Eia, sì, cambia i canali, mette per esempio il box, mette come si chiama, insomma, c'è un sacco di regolazioni là. Tutto dal microfono. Eia. È stato facile trovarlo, se li hanno tolti da mese magari può darsi pure la roba giusta che si trovi qualcuno, lì bisogna guardare bene. Chi ce l'ha quello lì? Se lo va di bagare, se lo mettono in vendita, se si trova. L'unica cosa è cercare in mezzo alla roba usata. Già torno a cercarlo. Anche stasera l'ho provato, un'oretta così, ma non me lo dava. Mi dava sempre quel fatto della, come ho fatto l'apparecchio, me l'ho fatto, ma dei microfoni non ne parlare meno. E non mi fa vedere nemmeno l'apparato, perché prima me lo dava l'apparato, anche se non c'era il microfono l'apparato me lo dava, perché no, e mi dava quelli usati e quelli nuovi, perché nuovi fatto direttamente con 80 canali, capito? Infatti se così, a me mi ha dato soltanto il coso della pagina dove era scritta, come era fatto, come cosa fa, cosa non fa, tutto quello mi ha dato, però non mi dava l'apparato, non me lo dava. Esattamente, hai trovato quella pagina che ho trovato io, tutto era come l'ha fatto, come i funzioni che aveva, tutto mi ha dato infatti quella pagina, però né apparato né microfono, sì, e mi dava un coso di 14 anni fa, capito? Apparato di 14 anni fa. Infatti. Ma già anche stamattina stavo cercando a vedere della roba negli apparati usati, però non, di quello lì non ne ho visto per niente, nulla. Questi apparati, questa roba vecchia, macchine vecchi, me la rendi? Magari mi sarà, magari mi sarà la roba usata, ragazza, e a capitarci a trovare una pagina sua. Prima o poi magari lo troveremo, dai. Ok, no, mi devo aspettare 5 minuti. Sono qua, Gian Maria. Attenzione, signor Battisio! Eccoci tu! E allora, signor giornalista? Ma mi sono messo le cuffie, sennò Signor, si sente tutto, no? No, io non sento nulla, ma sento solo a te parlare. Ma io la voce della TV, l'apparato, sembra che mi disturba, capito? Allora adesso mi sono messo le cuffie e sento, sento uno e l'altro, però non disturbo con la ricezione, capito? Aspetta Giovanni un attimino, che mi spiego della cosa che ho messo a bollire. Allora, il finocchio, ho messo a bollire. Oh, basso, sito, come va? Oh. Adesso siamo a posto. Fai un passaggio. Guarda, 1, 2, 3, prova. Oh, forse sono scoppiati allora. Fai un altro passaggio. Guarda a vedere, là. 1, 2, 3. Aspetta che non mi quadrano il finocchio. Non sarà giù basso così, no. Poco fa stavo andando bene, adesso mi sono abbassato. Prova adesso. Guarda a vedere, 2, 3, vado bene? Strano, sento basso, aspetta. È quasi al massimo, ti sento basso. Ti senti basso? No, ho giocato nulla. È come mi ha lasciato ed sono. Cosa ho toccato io? La radio è buona, no? Sì, se arrivano benissimo. Ma sento basso. E poi c'è solo il cuffie. Strano proprio. No, non lo so. Non so nulla. Adesso provo a cambiare apparecchio, prova a parlare. Guarda a vedere. Hola. 1, 2, 3, prova. Adesso ti sento bene. Ho uno spinocchio che non va bene, capisci? Siccome su prima c'avevo l'apparecchio grande e c'era lo spinotto grosso, adesso ho messo l'altro, però ho cambiato lo spinotto e va benissimo qua. Infatti è così. Cambia da spinotto a spinotto, cambia. Perché ce n'è uno mono sui baracchini, invece sull'apparecchio manno, sull'apparecchio grande c'è uno serio e uno mono, capito? Forse per quello. Quello serio è davanti, quello mono è dietro. Così che adesso già va bene, adesso. Ho cambiato baracchino però, qua ti sento più perfettamente, più bene, più forte pure. Confondibile sarà. Attenzione signor Bacchisio. Oh, perché ti pensi di mandrone il Bacchisio tu? A te immagini che? Se no è in garage, quindi a contenere la serranda. Tutte le sere della serrata, Ah, boh. Bacchisio, chissà cosa è combinente. Davvero. Era mal di gola ieri, mi sembra che ha detto. Speriamo che non sia attaccato l'influenza. Si è affidato freddo, Giulia. In campagna, caro mio, sa. Certo, ieri stava piovendo. E lui in campagna. Magari ha affidato un poco di fresco, poteva. Non lo so. Magari lì c'era freschetto. Sempre va bene la ora. vabbè. Ciao, ora entra. Presto ancora, sono le 7 appena. Sono le 7 appena, sì che. Vedrà lui cosa fare, là, se ne ha voglia, se non ha voglia, se è impegnato, eccetera, eccetera, eccetera. Luca si è assentato, Luca sta entrando dalla cassa della Sky, Cos'è? No, ho capito. Che sta entrando dalle casse della Sky. Eppure nella parabola non dovrebbe entrare. Babbo, è un apparato attaccato alla televisione, mi sembra che c'ha delle casse che non servono, mi sembra, così mi stanno dicendo. Se entra nella casa di Sky, Oddio, che cosa? Non è certa da avere? Visto che c'ha delle casse da due soldi, forse non sono nemmeno schermate, magari, è dentro, capito? Infatti, faccio pure che non siano schermate lì dentro. Magari lo sente nelle casse, non nel televisore, nelle casse. Nelle casse se lo sente. Lo sentono nelle casse. Anche il microfono che c'ha, che rientra. Provare con un microfono normale, perché lui c'è pure più 4, mi sembra. Con il microfono normale non lo sento. Se c'è quello amplificato, l'amplificato entra nelle casse. Infatti ho pure pensato a quello. Fare un problema a trovare un microfono normale, dai. Evidentemente per evitare basta usare il microfono normale ed è a posto. Infatti per evitare che sono il microfono normale e non entra. Esatto, sarà così. Infatti io prima con il microfono normale non entravo. Ah, quando pioveva entravo, però l'amplificato entrava anche in estate, capito? Io perché non sto usando più il microfono preamplificato, io per quel motivo, non disturbo perché ho provato il preamplificato, però non mi vado più a usare il preamplificato, lì a Cattastante, tutta la parte, lì mi sembra essere 6 o 7, ma sto usando sempre il microfono normale. Già va bene. Io lo sto usando e ancora non mi hanno detto nulla. Se vedo che disturba, lo cambio. Certe volte anche la posizione dell'antenna, capito? Può essere anche quello. Ma io ho già, mica altra l'antenna mia. Dall'antenna della TV ci saranno 5-6 metri, ci saranno e più, così che pure entravo, capito? Ma adesso che l'hai messo a posto e tutto quanto non penso che entri. No, non entro, no, nemmeno quando piove, nulla, non entro. Poi compro l'amplificato non l'ho provato, capito? Non mi interessa, altro non ci posso a mettere, sicché li ho tutti, uso il microfono normale e vanno bene, e a voglia. Anda bene. So che io stavo usando il microfono normale e non usciva bene, usciva basso, uscivo. Allora ci butto lì. Io sto usando, tutti, adesso qua ci sono, 1, 2, 3, ci sono 6 attaccati, e sono tutti con il microfono normale, manuale. Perché li ho provati tutti e non entro, capito? E per cui sono tranquillo, dai. E così, ma così non si disturba nessuno. Io a me, ma niente che non sto disturbando, ho chiesto nel palazzo vicino, ma niente di no. No, sta uscendo normale, non sentiamo nulla. Va bene così. Ma poi sono sempre con 4 watt io. Io esco con 4 watt, non di più, magari se lo metti in banda magari aumenta, però in banda non ci andiamo mai, per cui siamo sempre la M oppure l'FM, sono sempre 4 watt, è per zero, tutto abbassato, per cui non entra. Così è meglio stare tranquilli, ma intanto si è messo a posto e tutto quanto non dovrebbe entrare in nessun posto. E abbiamo fatto una cosa buona, dai, una cosa giusta, cazzo, voleva cambiare e basta il cavo, cazzo, che è tutta, poi ho la stazionale, non ce ne sono, per cui un sacchetto ce n'è, cioè un sacchetto solo, si può immaginare, e ho in tutti i canali, fin 40 canali, sento un sacchetto ce ne basta. Meglio così, anche io sono così, sono a zero di stazionali e tutto. Non è da stazionare questo, è perfetta, è tu. Così che l'apparato è preciso e per cui va bene così. 4 watt, sì, penso per i porci, 4 watt, boh. A voi, a papà vi dà due massi, che se uno è andato all'altro, si incontra, ragazzi. Attento, signor Macchisi, oh. Si sta aggiustando la serranda, boh. Sta aggiustando qualcosa e non può entrare. Che sta sempre ingrassando la serrata, lo dico io. Stava entrando a bui. Dopo le 7:30. E ieri è entrato tardi, infatti, è entrato un po' tardi io. Vabbè, già si farà vivo. La porta è aperta, se bussa glielo sentiamo. Vediamo un po'. Sugli ascolti c'è, sono due persone anziane, una 87 anni e l'altra 92, così è. Due persone anziane e stanno giocando in quel gioco della tabella. Come accabai di dire, dice, i programmi, anche non mi piace. E cosa vuoi fare? Stavo guardando prima. Prima ero un po' al computer, poi mi sono acceso la TV e stavo guardando sul canale 59, quelli dell'Alaska, i pescatori, quelli che costruiscono, quelli che cercano quei massi di pietra speciali. Poi è entrata mia moglie quel canale non gli piace e allora ci ha acceso, mi è entrata lì, ci ha messo canale 5, così che ci stiamo guardando i canali 5. Io quando sono solo mi guardo altri tipi di programmi. Io. Ero al telefono e mi ha chiamato mia moglie. Ci sentiamo dopo, vado a pigliarla. Ehi, è acceso qua, vai pure tranquillo, vai. Gian Maria, attenzione Gian Maria, signor Macchisio. Ehi, Bacchi. Non c'è Macchisio, io sono. Gian Maria, Macchisio. No, è tu. Ehi, sono io. Ah, Macchisio, non c'è sentito. Vedi che è indaffarato. Ho fatto gente in casa, stavo indaffarato. Quello in casa è indaffarato, dai. Speriamo che non si senta male. No, non penso. Non penso che sia così. Perché ieri dice che c'aveva un po' di mal di gola. Speriamo di no. Se piglia i caramelli, si piglia. Che caramelli, quelle alla menta. Guglia, si piglia. Che si fossi, che già passa per un po' di mal di gola. Attento, signor Macchisio. Macchisio si è perso una bufera. Se andiamo bene, andiamo. Ma non lo so io, che c'è un Macchisio, che pensi la bufera. Macchisio, aiuto. Marco Graziano è entrato. Adesso abbiamo preso una manta, è nato. Lo sappiamo bene, dottore. Non li ha messo più già stasera. Magari stamattina stava più vicinando, ma stasera non li ha messo. Vabbè, già è passata. Da domani si dovrebbero alzare le temperature. Domani mi sembra che qualche goccia alla fame domani. Speriamo che si sollevino bene un po', ma così freddo non viene. Umidità c'è, l'ho freddo, è l'umidità che penetra dentro la luce, capito? Questo è freddo, freddo non viene, però è l'umidità, capito? Attacco mio, hai già senso, vai tu fa. Quasi un'ora, però ancora la caglio due, questi caglio un po' come freddo a piedi, però mi dai caglietti, mi arrabbiano, là. Andiamo bene, andiamo. Babbo, ci siamo fridurosi, siamo. Ah, io c'ho sempre freddo a piedi, so. Certo, perché voi magari ci fa caldo, no? Però come ti fate un po' di freschetto subito intendo le ribunte dei riti gelati, capito? Perché è sempre freddo a piedi, certo. L'anno passato mi ha dibitato questa borsa, mi rimbogliare la casa, però a casa non me ne piglio perché se mi sono dormendo tanti di beni. Trovite, mi non intendo quasi più, è un po' strano, Aveva la circolazione, lo sangue. No, se c'è il freddo ai piedi, con la circolazione vuol dire che già c'è. Ma non è più di tanto. Quando metti il coso e la borsa acqua calda che comincia a tenerti un po', però già ti risciugli il mattese. Oh, pagano freddo, andiamo male. Capo, freddo. Non lo si può dire lo freddo. Però, rispetto a piedi, a Giuseppe freddo a piedi, capito? Si può immaginare. Poi magari la buca di zicco occhi e la voce di coccato dai casi, per cui però per un'oretta, 30 minuti è sempre freddo, la buca mano a mano i casi, capito? Infatti, a mano già scalda, certo. Mi sei scudo io, che nel mese con 30 minuti io matto il ciliegio, tu canto. Io mi zappo, avevo mi zappo, certo. Da voi si fa caso per tutti da di capo di Belafora e di Frazzi il rognone di Amerizzappo ma per i Frazzi di Capafora ma a me non conviene Gavani la Fura a chi no che lo prendo dirà e si aggancia già io rimane un po' carito così ma rimane un po' che tu preda, però a cavalla fuori non penso no. Tu dovresti avere più caldo in quell'appartamento, perché non sei all'ultimo piano, ma noi siamo all'ultimo piano, per cui come se fare un gaggio, fare un freddo, detto, fare così. Strisperi non ce ne sono più, grazie a Dio, che ho messo tutte le le finestre nuove. Però dalla bovina fare un freddo, certo. Così che deve da parte la luce. Ma capiteggia che anche luce magari è più caldo, ecco. A chi freddo, freddo, freddo ancora non è fene, capito? Così che magari quasi freddo, freddo, non le gambe mi la furano. Non saranno. No, da me qua, i muri sono biondi. Che dati ne ha passi in fuoco e freddo, da voi da sotto, nasce ancora di più, non me ne dai, ma perché i porti ci sono vuoti sotto, non so se arrabbia, quindi lo freddo entra. Ma tu sei un brimabbiano. È un brimabbiano per freddo, è grande la casa, è per quello che c'è freddo. No, che io guarda che mi gira i cattoli, video e tagliami dai muri e ripieno. Tagliare a pietà, a pietà, a pietà i muri. lei all'esterno l'ho fatta a mattone da voi per Mazzano, ho fatto il mattone, no? A pazienza mi sono il mattone e mezzo per la camera d'aria, ma non per niente in mezzo, capito? Come sei loro, ma se no che la mattina cose, no? Capito? Però ripeto, comincia a essere più carico di noi, perché io sono proprio sotto la bocca, sotto un terrazzo, mentre tu la sopra non ti ne fa la fredda, ti si da sotto, e da sotto è tutto sbarcato, così che non ti comincia a entrare a freddo, capito? Come in tenocchi. Prima mica doveva le porte e finestre, chi non era, tutte porte e finestre, poi per questi anni, capita, nella mia rasingata, capita, senza guarnizione, dappertutto entrava gli spifferi per la fredda di ferro, non hai idea. Certo, invece adesso con la fisica è tutta un'altra cosa, va. No, ve ne so pifari, per cui da rimane più riservato, però lo prendo e tra pure dare i muri. Infatti qua sotto io c'ho il portico, c'ho e paghi su, e più i muri, entra lo prendo dai muri, entra, infatti mi giro le catri dagli ammedai, è ripieno con il coso, con la lana di vetro. Ripeto, a polistirolo, ma è cazzo una parola, non riesci a pianarli completamente, capito? Ma chi in questi punti rimane zappato e per cui è difficile, capito? Un buon riscaldamento e basta, così che è freddo non viene tra più. Sì, a sentire il riscaldamento e alla fine che freddo non finisce. Hai atteso la stufa, però a cambiare tutto sarà a lutto a tenere un garoto. Vai, no, per esempio, no. Io la base sta di me. Più alta più caso beh, arrivo fino a cifrare che le risi a che vera un mese di gaglio, un mese, e da mangiare il ciuffo che a caso e quando vai la stufa a tenere se l'ha disturbata, ma è solito all'ordine si manco qua che l'ordine si nel studio sempre, capito? Però arrivo tutti a essere la prima, ma l'ha già stessa le zecche in mezzo, però l'ha già stessa tutto. Casi che ha 80 metri quadri, certo, anzi 87 metri quadri, so, e per cui vivo del bisogno, capito? Poi a minimo è a due appena a minimo, se la bonga a tre magari allora è casi prima, ma è a minimo a due, quindi che va su sì. Fatto bene. Io a me ho i termosifoni attaccati alla stufa, io non ce l'ho ad aria, sono battigliando un'altra di chi sia a ventola che impegna aria, infine invece così a manco i casi di più. Ma io i nonchi nel trabocco, no? In questa cameretta nel trabocco un calore, anche per la sala che manda, e la camera da letto manda un me che ci ricade con male, la cucina entra pacchiaggio dall'alto, c'è un po' sul tubo e si entra proprio in cucina e ti ricagli subito. Ma questa cameretta no, e beh, sta il burro condizionatore, mi ha un po' strano passaggio, anche per la sempre freddo, però ancora non la sento, però si fa di freddo, chi c'ha prima con cambi, la sento un'oretta, vai a casa, ne ricudo, allora si c'ha di un bel becca. Mi tocca fare così. Ma io già ho quella la stufa più, a fine mese attendo un riscaldamento. E cominciamo a intendere più caldo. Allora sono tutti riani a becchi, pure mi si trovano a becchi, tutti a becchi sono riani, non puoi immaginare, un calore che mi trova dappertutto. vestito la cara freddo che è stato un tabiccio. Si è traducato per vento forse, dallo di passaracciglia del guasso, del guassonetto, della serranda, di passare a casa per un buco il guassonetto, c'è il programma della congereggia. No, io lascio gli obbelli chiusi per i cassonetti, sono in ferro, ma sono belli serrati. Guarda che mi pongo il giambo, le pongo il legno, le pongo. Ma quella casa, la tua, è già riscattata il traetto? Sì, è già riscattata, è già fatto il tutto, è riscattata da me adesso. L'ultima parte era la mia, e l'ho riscattata, ho finito da poco di pagare gli ultimi centesimi. Io c'ho ancora un anno e mezzo, c'ho ancora. Io c'ho ancora un anno e mezzo. Senta, se me la viene pagando la giubilata che ve l'ha giudicato. E dice non ne stiamo dando, dice quando li diamo al riscatto, dice li avvisiamo. E non mi ha mai avvisato, gatta. Perché erano abbigliati di stati. Perché sono tabella per aiutare da prima abbigliare io. Anche per un'amica Giulia, è popolare, è da per aiutare. Infatti ha pagato poco quello la casa, la gatta. Mi pare che l'ha già pagata 6 o 7 milioni, si può immaginare. A chi era la prima da un me, mentre ora mi dà il ritaglio e vado, è un anno e mezzo ancora va bene. No, io ho dato la parte a mio cognato, e ho pagato la cosa, e ho avuto di pagarmi il mutuo. Piccolo, ma me l'ha già pagata, a gennaio gli hanno abbassato la giovenile. Ah, per quella, per cosa? Non era la sua prima? Chi c'era? Il tuo cognato prima? No, di mia suocera era, però io ho dato la parte di mio cognato, l'ho presa io. Ah, ecco, ho capito. Ti è andata bene, sì. Almeno la tua, se puoi fare quello che vuoi dentro. Sì, facciata no, ma dentro puoi fare come io stesso. Posso fare quello che voglio dentro. Ora no, però dentro lo posso fare. Per cui me la posso rimodare come voglio. Io mi sta bene con me adesso, tranquillo, capito? Tra voi che rimane Sarlandia. Io la gioco molto bajo i nuovi. Mi forse il prossimo anno c'è un buona veranda a Giambo, che dice che fai, fate troppo umide dai. La Giambo e ci ho condizionato a tui, la stufa, a voglia per un riscaldamento condominiale. E venne di cosa? L'ho modificata un po'. Infatti. Il riscaldamento condominiale, invece noi non ce l'hanno messo, a noi no, gatta, cosa che noi prima, cosa che l'ho provato, il ciuffo a legna, il ciuffo a gas, il ciuffo a carosene, la pellet, i condensatori, si può immaginare, però preso che c'era prima, adesso non c'è, perché anch'io ho messo tutte le finestre nuove e le porte nuove, capito? Per cui anche le porte ho cambiato io, perché quelle che c'erano facevano schifo. Mi è scivolata la cadrea in cucina, gatta. Se è uscito rifatti alla Ianna, la diffondata, e poi mangiare che già nera lì, gatta. Tutti fatti di cassone, gatta, dentro. Rabbia tutti i giambati, tutto il giambato. Anche la porta di ingresso, anche quelli il portone ho cambiato. Ho messo nuovo, più grande pure, di fascia me la giunto in mano. No, io l'ho cambiato lo stesso il portoncino, c'ho la porta blindata. Ma voglia, hai buttato gli anni in PVC, hai buttato. Figati. Chi sei di rubagno che non mi ha buttato, rubacone. Ah, vabbè, quest'anno adesso guardo e me la posso fare. No, nel bagno c'è la finestra che fa il terrazzino, io, no? Però è la finestra vecchia di la mia rasingata, quella non l'ho cambiata, perché ho detto cosa la cambia a fare, però sarebbe meglio cambiarla invece. E io prima o poi me la cambio quella lì, ma il resto le ho tutte, ma io ho fatto anche le perché avevo tutte porte finestre, io mi sono fatto le finestre in tutte le camere, solo in sala. No, in sala no, le ho lasciate a porte e finestre, però le ho fatte tutte in coso, le nuove, no? Un nuovo tipo di finestre. Sì, per almeno entra in estate, entra un po' d'aria, capito? Solo quella, non ho fatto i muri per la mezza finestra, capito? Invece le camere le ho fatte, le ho fatte in cucina, in questa cameretta, in camera da letto, e le ho fatte tre finestre, e per cui, e poi ho fatto anche il terrazzino, che l'ho chiuso tutto completamente, e l'ho messo quelle due le porte scorrevole, quindi sono due, e per cui è tutto coperto il terrazzino, capito? E prendo le tre di manco, in cazzo, fa come c'è la brimba, va per tutto, ci moriamo di un freddo in noi brimba. No, io oggi sono andato i vacconi, prima che avevo i vacconi io di lamiera, ma adesso e ho messo in PVC con doppio vetro, e voglia, ma non entra più freddo, mentre prima. Gli butto tutto canto a nuovo, ci piace più bene se piace più. Ah, ancora un po' di freddo già c'è. Adesso mi furieggio, figlio, e portami dai i muri, è il pieno. Appena mi rimori cosa, Vito? Appena mi rimori cosa? Ma non penso che diventare freddo così in otto. Scatta. Se mi basso, magari io sono più un attimo e ti fai un muro, capito? Forse magisce. Però, sai com'è, è una barata piena di tutti i muri, ma scherzando, sai, vediamo un poco la vetro o polistirelli. A poi dove devi cosa ti posso punire di domani il materiale duccio che isoli. E poi e cosa, a vedere se ripieno, poi rigiarlo. Sarebbe una cosa ben fatta, allora sì, rimane più caldo l'appartamento, ma mi do un po' un materiale, certo, la barava, certo, la piena, certo. Sai cosa ho intenzione di fare, a livellarmi e fare la camera a quadrata proprio, perché io ho la pendenza all'ultimo piano, capito? E la camera non è squadrata perfettamente. E sto pensando a farla squadrare la volta con quelli polistirolo leggere, capito? A fare bella bianca, cazzo, oppure in colore. Tu stai dicendo a metterci i pannelli sotto, per andare a vomita. Esatto, sì. Quello è proprio uno che non passa l'umidità, capito? Quello sto pensando di fare, perché è sotto il terrazzo, sembra così, ma c'è freddo, c'è freddo, scende freddo, è come scende il caldo, invece se riservate quei pannelli rimane tamburato, per cui il freddo entra di meno, e in estate si sta anche più bene pure. Quei pannelli isolanti dovresti far mettere? pannelli isolanti, più che altro, e ti isola tutto, ti isola. Si può mettere sì. Infatti, si può mettere sì. Infatti, aspettando mio cognato, che lui fa questi lavori, e vedo un po' più o meno quanto mi costa tutto l'appartamento, fa sfoderarlo bene, capito? E quell'intenzione ciò. C'ho quell'intenzione e vediamo poi dopo. E tanto se ti deve scendere almeno di 10 centimetri, dovresti scendere per farlo bene, sono a 10 centimetri dal solaio, e magari sotto dentro mettergli del materiale isolante. Quei fogli di polistirene, cioè fogli grandi di polistirene ci mettono, quelli grossi, in modo che non scenda, capito? E infatti, appena che si libera viene con prende le misure, vedo un po' quanto vengo a spendere, capito? Che cosa gli fai mettere sopra per isolare sopra il pannello del sughero? Del sughero è che isola di più. Bisogna vedere quanto viene a costare quella roba, capito? Quello che mi conviene ci metto, capito? Deve essere isolata e una volta che ci ha fatto la devi fare bene, capito? Ci sto pensando, Uno qua vicino se l'aveva fatto, si è isolato i muri e più si è isolato Bulavovida, si è isolato, che era in Cabituria, e se l'ha isolata un po', forse l'ha isolata, non la Vovida, dentro nel tetto l'ha isolata. Tante cose si possono fare, anche i muri, basta prendere quei fogli che fanno ultimamente, che pannelli grossi come si chiamano, e dentro c'è l'isolamento, l'isolante, capito? Per il freddo e per il caldo, capito? Come si chiama quei pannelli, ma è un macello, mi rimane un poco di nato. Beh, mentre invece io facendo solo una volta mi costa anche di meno, e mi basterebbe solo la squadra fatta bene sul tetto, perché anche per la pendenza, per vedere la camera quadrata bene, capito? Infatti, no, questo io si è isolato i muri con schiuma e cose, schiuma mischiata a polistirolo, si è messo dentro, ma dice che il freddo non ha più come prima. Già lo credo che ripara già. Ripara parecchio. Vediamo un po'. Adesso vediamo un po' quanto viene a costarmi. Se mi conviene lo faccio, grazie. Almeno se uno c'ha più caldo è più tranquillo anche. E poi rimane anche più bello l'appartamento, dai, quando è squadrato, perché sembra così, ma è a Sinotta la pendenza, anche se poco è a Sinotta, capito? Sinotta sì, la pendenza, perché sono fatti male come coso, dove arriva almeno un sottotetto dovranno fare. Metterci un tetto direttamente invece che farli a così così in pendenza. Allora dovevo mettere le tegole, sopra, ragazzi, sarebbe stato migliore, dai. Con le tegole ci sarebbe stato anche molto più caldo, capito? Ma invece, certo, voglia, per carità, ma vediamo un po'. Sai vabbè, anzi possiamo ringraziare che ci hanno fatto anche queste qua, e per cui l'affitto vuole pagarlo, se non lo lavora come fa, e c'è famiglia grossa. Lo so, infatti lo so, purtroppo. le muove così. Vabbè dai Gianmarì, è giunta l'ora, a me mi ok dai, ci sentiamo domani, ci sentiamo. D'accordo, anch'io, sono già le 8, perché non mi ho fritto, grazie della chiacchierata, saluto di casa. Ma chi non si è sentito, lo salutiamo ugualmente, sei d'ascolto. Ciao Bacchi, buonanotte, a domani. Ciao Tò, a domani allora, dai. Ci sentiamo, ciao. Sì, ok, ciao Gianmarì.